12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi, ultima di questa prima stagione di 12 minuti, vorremmo tirare un po' le somme di quest'anno insieme, dando voce ai giovani per cui abbiamo pensato a questo programma, e vorremmo anche raccontarvi chi è l'Informa Giovani di Mestre Venezia, cosa sta facendo e cosa vorrebbe realizzare per il futuro. Per questo, nella seconda parte della puntata, avremo qui con noi, ospite speciale a 12 minuti, Maurizio Busacca, coordinatore dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Il programma 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro, è nato dall'idea di poter dare informazioni utili per avvicinarsi al tanto complicato mondo del lavoro di oggi, attraverso approfondimenti su temi specifici ed interviste con esperti. Ma soprattutto alla base c'era la volontà di dare voce ai giovani, che potessero raccontare le loro esperienze di successo o meno e confrontarsi tra pari, da e ricevendo consigli utili. In questi 9 mesi abbiamo affrontato moltissimi temi, dalla possibilità di lavorare e studiare all'estero, all'autoimprenditoria, l'apprendistato e approfondimenti di specifiche professioni. L'intenzione è stata proprio quella di rispondere alle domande che più frequentemente ci arrivavano dai giovani in cerca di un'occupazione e di poter offrire conoscenze e spunti interessanti ed utili. Speriamo di esserci riusciti a raggiungere questo obiettivo e di avervi dato delle dritte, perché come dice il nostro promo, lavorare stanca, ma cercare lavoro ancora di più. Come vi dicevo, l'idea di 12 minuti era quella di dare voce ai giovani, e per tale ragione, tra i tanti che in questo periodo abbiamo incontrato e con cui abbiamo collaborato, abbiamo invitato oggi Dario Bertocchi, neo laureato di Venezia, al quale vorremmo chiedere di raccontarci cosa vuol dire essere un giovane in cerca di lavoro in questo momento, quali sono le sue aspettative, come si sta muovendo per trovare un'occupazione e quali sono le difficoltà o le opportunità che sta incontrando. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Diamo quindi subito il benvenuto a Dario Bertocchi. Ciao Dario, benvenuto a 12 minuti. Ciao Giovanna. Dario, ci racconti chi sei e cosa fai in questo momento della tua vita? Sì, allora io sono un neolaureato di Ca' Foscari, mi sono laureato circa 2 mesi fa in economia e gestione delle arti e delle attività culturali, e fortunatamente subito dopo ho trovato uno stage, quindi sto facendo uno stage pagato nell'area in cui ho studiato, perché mi occupo di realizzazione di eventi culturali. Ecco Dario, appunto hai detto che da poco hai terminato l'università a 2 mesi. Quali sono le tue aspettative, i sogni un po' nel cassetto? E i sogni nel cassetto sono quelli di trovare un lavoro fisso, o almeno adesso un contratto che sia a tempo determinato, ma che insomma si possa definire lavoro e non più stage o tirocinio pagato poco o non pagato. Insomma, la volontà è di essere inserito nel mondo lavorativo in un'impresa già avviata. Ecco, a proposito di questo Dario, quali sono le realtà che stai incontrando, o meglio, proprio per realizzare, no, questa aspettativa di trovare un lavoro, un po' le difficoltà, ma anche magari le opportunità che magari nel territorio stai vedendo? Sì, diciamo che i miei compagni sono in una situazione un po' più difficile, perché finita la laurea si ritrovano ogni mattina a inviare curriculum a gogo senza a volte avere risposta, o ricevendo risposte solo per stage e tirocini, magari non pagati. Questo è un po' frustrante per uno che magari ha studiato 5 anni e appena uscito dall'università. La difficoltà è questa, collegare il mondo dell'università al lavoro. Ecco Dario, cosa pensi potrebbe essere utile appunto ad un giovane che come te, ci hai raccontato, insomma oggi ha terminato gli studi ed è in cerca di una prima occupazione? Potrebbe essere utile già iniziare il processo di ricerca lavoro già nell'ultimo anno universitario, quindi non aspettare tutto alla fine della tesi, fine della laurea, ok, adesso inizio nel mondo del lavoro, ma iniziare già prima, iniziare già dalla scuola, dall'università, oppure insomma dei centri che aiutino soprattutto i giovani di trovare lavoro, di trovare inserimento nel mondo lavorativo. Dario, ti ringrazio per essere stato qui con noi a 12 minuti e ovviamente ti faccio un grande in bocca al lupo per grazie, i tuoi progetti crepi, futuri crepi. E ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale, poi rientriamo in studio per scoprire insieme a Maurizio Busacca, coordinatore dell'Informa Giovani di Mestre Venezia, quali sono le iniziative future dell'Informa Giovani e cosa sta accadendo nel nostro territorio in tema di facilitazione per l'occupazione giovanile. This is the end, station, but I can move away from you. This is the edge of patience. Slow down, walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi, ultima di questa prima stagione, stiamo tirando un po' le somme di questi 9 mesi passati insieme. Nella prima parte della puntata abbiamo cercato di raccontarvi da dove è nato 12 minuti e insieme a Dario Bertocchi, giovane neolaureato, abbiamo provato a capire qual è la situazione dei giovani in cerca di lavoro oggi e quali sono le difficoltà e le opportunità che stanno incontrando. Ora proviamo a scoprire cosa l'Informa Giovani di Mestre in serbo per il futuro e quali sono le politiche che nel nostro territorio si stanno attivando per favorire l'occupazione giovanile insieme a Maurizio Busacca, coordinatore dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Maurizio, benvenuto a 12 minuti. Buongiorno. Maurizio, innanzitutto l'Informa Giovani quando nasce e che storia ha? Ha una storia abbastanza lunga, nel senso che l'Informa Giovani nasce sul finire degli anni Ottanta, nasce a Parigi e in realtà arriva velocemente, arriva un anno dopo, nell'89, arriva anche a Mestre Venezia. Nasce in un periodo in cui non esistevano internet, non esisteva Google, non esistevano una serie di strumenti e quindi nasceva come servizio deputato a ricercare informazioni utili al mondo giovanile, a ricercarle, a classificarle e quindi ad offrirle ai giovani. Da allora ad oggi ovviamente sono successe un bel po' di cose, non solo grazie ad internet, ma di cose ne sono successe tante e quindi il servizio nel tempo si è evoluto. È diventato un servizio che continua ad avere come prerogativa quella di gestire delle moli informative molto utili, molto importanti, anche consistenti per il mondo giovanile. Oggi lo fa attraverso degli strumenti sicuramente più dinamici e più rapidi. Ecco, oggi l'Informa Giovani, Maurizio, su cosa sta puntando? Allora, siamo in un periodo di transizione abbastanza forte, vale per l'Informa Giovani di Mestre, Venezia, ma vale un po' per l'Informa Giovani in tutta Italia, nel senso che tutti ci stiamo chiedendo che strada dobbiamo intraprendere per continuare ad essere utili ai giovani che vivono e che frequentano i nostri territori. Essere utili in un momento di grande difficoltà, essere utili in un momento in cui il mondo della scuola o comunque dell'istruzione non è sempre così chiaro e di facile accesso, essere utili in un momento in cui il mondo del lavoro sembra impermeabile rispetto ai giovani che cercano di approcciarlo e che cercano di entrarci. Ci stiamo ponendo una serie di domande e iniziamo a intravedere alcune possibili risposte. In questi ultimi anni o forse mesi, noi a Venezia in modo particolare, ma anche in altri luoghi d'Italia, ci siamo molto concentrati sul aggiungere all'attività informativa tipica e classica degli Informa Giovani anche dei progetti di accompagnamento e di supporto più strutturati, soprattutto relativi al mondo del lavoro e quindi alla ricerca di occupazione, concentrandoci molto sui temi dell'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro, alle aziende e al tema dell'autoimprenditorialità giovanile. Maurizio, un'ultima domanda. In questo momento, in tema di proprio occupazione giovanile, nel nostro territorio le amministrazioni pubbliche che direzione stanno prendendo? Quindi che tipo di politiche si stanno promuovendo? Sì, ce lo chiediamo tutti, nel senso che di politiche se ne stanno cercando di fare molte, non è molto chiaro qual è la direzione che si sta prendendo, perché se da un lato si continua a dichiarare l'emergenza del tema giovani occupazione, dall'altro non è ancora del tutto chiaro quali sono le politiche che si stanno intraprendendo. Noi viviamo in un territorio, da questo punto di vista, che negli anni ha dimostrato un particolare impegno, una particolare sensibilità, e non penso solo a Venezia, penso alla regione Veneto, oltre che al territorio comunale. Rispetto poi a queste dichiarazioni, però, nella pratica le azioni che oggi si mettono in piedi sono ancora, dal mio punto di vista, quindi assolutamente discutibile e criticabile, ma ancora troppo poche, nel senso che noi assistiamo ad alcuni percorsi legati al mercato del lavoro, alle work experience, ma ci rendiamo conto che non è sufficiente quello che si sta facendo. Maurizio, io ti ringrazio per questa panoramica a più ampio raggio di ciò che sta accadendo nel nostro territorio, appunto in favore dei giovani che si ritrovano alle prese con la complicata ricerca di un impiego in questo momento così storico, critico. Grazie a voi per l'opportunità. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. E giunti in chiusura di questa ultima puntata, doverosi sono i ringraziamenti. Grazie all'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Venezia, che crede da moltissimi anni nel progetto dell'Informa Giovani e che ha supportato la sfida di un programma radiofonico come 12 minuti. Grazie allo staff e al coordinatore dell'Informa Giovani che hanno lavorato all'ideazione e alla redazione di questo programma. Grazie a tutti i colleghi tirocinanti e amici che all'Informa Giovani e a 12 minuti hanno dato un tributo prezioso. Grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti in queste puntate registrate in 9 mesi di programmazione. E alla fine, in cui si lasciano i pezzi grossi e più importanti, un grazie speciale a Blu Radio Veneto, che ci ha dato la possibilità di realizzare 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro, che ha creduto in questo programma accogliendoci con entusiasmo. Grazie a Mirko Cavallin, i cui preziosi consigli per la conduzione sono stati fondamentali per una conduttrice radiofonica alle prime armi come la sottoscritta. Grazie a Eddie in regia per la pazienza con cui ci ha seguiti e la professionalità con cui ha lavorato con noi. E ora siamo giunti davvero al termine di questa puntata. Vi auguro una buona estate e, per la prima volta lo posso dire, linea a te Mirko. Bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.